Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo dei dati dell'Istat sull'occupazione e la disoccupazione e gli inattivi nel mese di aprile, perché dato visto così può sembrare paradossale, la disoccupazione è crollata al 6,3% contro l'8% di marzo. Ora, ovviamente non sono aumentati i posti di lavoro, purtroppo. Cosa è successo? Siccome la disoccupazione va a misurare su tutta la forza lavoro, cioè su chi può lavorare, quanti sono quelli che non hanno trovato, su chi è disponibile a lavorare, è crollato il numero di persone che è disponibile a lavorare, nel senso che il numero degli inattivi è cresciuto, quelli che non sono né disoccupati né occupati, cioè non stanno né cercando il lavoro né stanno lavorando, è schizzato a 746.000, e quindi il tasso di disoccupazione oggi più che mai rappresenta un dato fuorviante, perché sono 484.000 le persone in meno che cercano lavoro, però e questo porta il dato della disoccupazione al 6,3%. Però se si guarda l'occupazione, che invece è un altro dato, misura tutti quelli che lavorano, fatto 100 chi può lavorare, e quindi sulla popolazione di riferimento in età lavorativa, mentre la disoccupazione va solo a vedere quanti sono quelli che non hanno trovato lavoro tra quelli che possono lavorare. Perché c'è una differenza fondamentale? Perché se tu sei un inattivo, cioè se tu il lavoro non ce l'hai ma non lo stai neanche cercando, tipicamente nei mesi passati era prima del Covid, era dovuto al fatto, per esempio, quando si creava una sfiducia nel mercato del lavoro, molte persone potevano anche decidere di restare a casa perché trovano meno conveniente andare a cercare un lavoro, e quindi l'occupazione l'abbiamo già vista calare in maniera divergente rispetto alla disoccupazione. Oggi più che mai, nel senso che se la disoccupazione cala perché si è ridotto il numero di persone che stanno cercando un lavoro, l'occupazione cala ancora di più, perché abbiamo il dato peggiore da quando esiste la serie storica. Ci sono 274.000 occupati in meno rispetto a marzo, e quindi il calo di 274.000 posti di lavoro rispetto a marzo è il calo più forte da quando esiste la serie storica, da quando misuriamo il dato mese su mese, e cioè dal 2004. La flessione più forte era stata quella del 2009, quando l'emorragia si fermò a 125.000 occupati. Ancora, per quello che riguarda, ascolteremo anche il responsabile di produzione statistica dell'Istat, alle 18 c'è attesa per l'intervento del Presidente del Consiglio Conte nel giorno delle riaperture. Speriamo che sia in orario, lo dico senza polemiche, ma spesso gli interventi di Conte sono slittati, perché ci si attende da un lato un intervento che vada a parlare delle riaperture, di questa nuova fase che oggi è in tutta Europa, e adesso mi collegherò anche su questo ai mercati, dall'altro però anche di un piano che io chiamo fase 3, quindi usciti dall'emergenza in senso sanitario e delle misure emergenziali di liquidità, con tutte le polemiche che ci sono state sulla facilità o meno nell'ottenere liquidità almeno per i 25.000 euro o i 600 euro, la cassa integrazione, oggi solo 24 ore ci apre, insomma, sulla cassa integrazione, ma ci si aspetta un discorso che sia più in prospettiva, non dico un piano, qualcuno ha scritto piano decennale, insomma, mi sarebbe un po' difficile fare un piano decennale, ma di visione più ampia, non di tamponamento dell'emergenza economica, anche perché è quello che viene chiesto poi, verrà chiesto dall'Europa quando passerà il recovery fund. Cioè noi non potremo semplicemente dire bene, prendiamo questi soldi, qualcuno ha detto per le tasse, ma insomma, detta così, no, non si può fare, cioè devi dimostrare anche serietà negli obiettivi che ti poni come paese, penso agli obiettivi infrastrutturali, edilizia scolastica, edilizia sanitaria, infrastrutture anche digitali oltre che fisiche, gli investimenti nella sanità, nel green, perché l'Europa ci tiene molto che una parte di questi investimenti siano per l'economia sostenibile. Cioè deve avere un po' quella che si chiede a una visione del paese, tamponare, come dice il termine, era necessario in questi mesi, in questi 2 o 3 mesi, adesso devi far capire dove vuoi portare il paese. Adesso, la frase detta così sembra quasi, quasi troppo alta, però non puoi più limitarti a misure che valgono da mese a mese. Di questo parleremo anche, e speriamo di poter ascoltare il Presidente del Consiglio alle 18. Faccio notare, visto che parlavo delle riaperture di oggi, avremo anche un approfondimento sulle riaperture, che oggi le borse vanno benissimo su un'euforia generalizzata di una ripartenza del mondo economico con la fine definitiva del lockdown in Francia, in Spagna, in Italia, lo sappiamo, oggi è il primo giorno in cui si può circolare tra le regioni. Parleremo anche delle ipotesi di apertura delle frontiere, la resistenza dell'Austria e quant'altro, ma insomma c'è euforia nelle borse sul ragionamento che adesso anche gli ultimi limiti, ogni paese poi è chiaramente un po' diverso dall'altro, penso alla Francia, alla Spagna, la Francia ha riaperto per esempio i bar e i ristoranti ieri, il 2 giugno, noi l'avevamo già fatto il 18 giugno. Però al di là di questo, insomma, quello che è il dato di fondo è che il lockdown, per come l'abbiamo conosciuto, per fortuna, e spero per sempre, è terminato in tutti i vari paesi e anche con gli spostamenti. La reazione è fortissima delle borse, Milano sta guadagnando il 3,5%, Parigi il 3,40%, Francoforte quasi il 4%, Londra il 2,30%, Dow Jones più 1,5%. C'è una crescita generalizzata su tutti i settori, ST Microelectronics più 8%, Leonardo più 8%, Salvatore Ferragamo più 6,70%, Tenaris più 5,5% come CNH, il 5,30% lo guadagna Mediobanca, il 5% Fiat Chrysler, il 4,80%, mi fermo con chi guadagna più del 3%, il 4,80% è il rialzo di Enel, Generali e Exor, il 4,30% di Unicredit, il 3,80% di Pirelli e UbiBanca, il 3,5% lo guadagna Buzzi, Unicem, Saipem, ma anche Unipol e Intesa San Paolo, il 3,2% è il rialzo di Atlantia, A2A e Poste Italiane. Di negativo c'è Diasorin, meno 3,80%, Telecom Italia, meno 2%, Recordati, meno 0,60%, in netto rafforzamento anche l'euro sul dollaro, a un netto insomma. Visto che viaggiavamo a 1,08, 1,09, oggi siamo a 1,12. Ecco, netto è un'altra cosa, mi correggo da solo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Stati Uniti, non per parlare dell'ondata di proteste, ma in questo caso per il settore privato americano che ha perso 2.760.000 posti di lavoro nel mese di maggio, anche se i dati ufficiali arriveranno venerdì. L'indice ISM dei servizi, che va a monitorare l'andamento del settore dei servizi negli Stati Uniti, è salito a maggio, un po' meglio dell'attesa, 45,4 punti contro i 44 attesi. E Trump invece starebbe pensando a vietare l'ingresso negli Stati Uniti a tutte le compagnie aeree cinesi a partire dal 16 giugno, una misura che segnerebbe un'ulteriore escalation nelle tensioni tra Washington e Pechino, che però in questo caso non è causata dal Covid e dalle comunicazioni che ha fatto la Cina sul Covid, ma dalla vicenda di Hong Kong, che obiettivamente, per quello che vale la mia opinione, è inaccettabile, visto che c'erano degli altri accordi. Mi sembra anche abbastanza chiaro che la Cina stia, tra virgolette, approfittando dei caos che c'è a livello mondiale per il Covid e nel Covid negli Stati Uniti anche per i disordini, per fare un'operazione che giustamente la Gran Bretagna e gli Stati Uniti hanno stigmatizzato. Vorrei sentire una voce anche un pochino più forte dell'Europa e dell'Italia, sempre. Immagino che noi non abbiamo nessun timore a criticare la Cina quando c'è bisogno di criticarla, ecco. anche perché l'indagine della Associated Press, un'inchiesta pubblicata ieri, va, da un lato scagiona un po' l'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè dice che l'OMS ha chiesto ripetutamente comunicazioni e informazioni da metà dicembre in poi alla Cina sul Covid, però fu la Cina a ritardare la comunicazione dei dati e in alcuni casi li nascose, creando grande frustrazione tra i ranghi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E da queste carte emergerebbe un dietro le quinte ben diverso dalle lodi pubbliche che invece l'OMS ha fatto alla Cina, anche perché sappiamo che vi fu una comunicazione del 5 di gennaio in cui veniva esclusa la possibilità di contagio tra uomo e uomo. E io continuo a dire che adesso, a maggior ragione adesso, sperando che il Covid, che la parte epidemica sia conclusa, occorre far sentire la parte delle diplomazie. Non è che può passare così sta cosa, anche per un futuro. Non vorrei mai dovermi ritrovare con un Covid-21, un Covid-22 con le stesse dinamiche. Ma la Cina tanto non ci vuole sentire. La cultura cinese non è abituata a riconoscere gli errori, in senso, diciamo così, chiaro. Perché ha respinto tutte le accuse sui ritardi nella comunicazione all'OMS. Non so da dove vengono questi documenti interni, ma sono storie del tutto inconsistenti rispetto ai fatti, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri Zhao Lijian. Va bene. Per cui, secondo la Cina ha fatto tutto il possibile per comunicare correttamente questa pandemia e tiene aggiornati i dati sui decessi e i contagi in Cina a una cifra irrisoria di 4.600 morti e dei casi confermati 84.000. Faccio notare che, appunto, con la popolazione che ha la Cina, faccio notare che i decessi sono 106.000 invece negli Stati Uniti, 31.000 in Brasile, sono 39.000 nel Regno Unito, 33.000 in Italia, 29.000 in Francia e 27.000 in Spagna. Giusto così. Guardi, a chi mi scrive sempre a criticare la Cina ma non dice nulla su Trump, sul Covid, il razzismo, ma figuratevi, detto questo, per chiarirle ogni dubbio, la differenza tra criticare gli Stati Uniti e criticare la Cina è la differenza tra criticare una democrazia, poi uno lo può pensare come vuole su Trump, figuratevi, il sottoscritto, ma è stato eletto democraticamente, una democrazia dove la stampa è libera, i giornalisti non vengono arrestati, i medici non vengono arrestati se denunciano un'epidemia e via così, con tutti i difetti che può avere la democrazia americana, e ne vediamo alcuni in questi giorni, e con tutte le opinioni che uno può avere su Trump. Ma non miscoliamo, diciamo, pere con le mele, per non usare un altro termine. Lì è comunque una democrazia. L'altra no. Arresta i medici, i dissidenti e abbiamo visto come si comporta con Hong Kong. Quindi se il punto dell'ascoltatore è Cina o Stati Uniti sono come Francia o Spagna, per me pari son, no, non c'è, con tutti i limiti che può avere la democrazia americana, è una democrazia. Io non ho dubbi, diciamo, sotto quale area stare, l'area più democratica possibile per me è l'area europea, ma diciamo non certo l'area cinese, e non ho nessun motivo per ribadirlo in tutte le sedi. Vabbè, la Svezia invece fa autocritica, dice: penso che avremmo potuto fare meglio, l'ho detto il principale epidemiologo del paese, Anders Tegnell, che è quello che ha ispirato il governo per tenere tutto aperto. E lo stesso Tegnell ha ammesso che la strategia morbida adottata dal governo di Stoccolma ha creato troppi morti. Il numero di persone morte in Svezia ha raggiunto i 4.700, mentre per quello che riguarda la c'è uno che mi scrive. Allora, per quello che riguarda la Francia dice: l'epidemia è probabilmente alle nostre spalle, ci potranno essere dei focolai che non avranno la stessa intensità della prima epidemia. Questa è anche l'opinione dei clinici, e quindi di chi sta nel pronto soccorso, nei reparti. È il primario del pronto soccorso dell'ospedale Pompidou di Parigi, uno dei principali dell'area. La cito perché è identica a molte dichiarazioni dei nostri clinici, non dei virologi, che non hanno detto che il virus non ci sia più, hanno detto che dal punto di vista clinico è praticamente scomparso, non che sia scomparso dal punto di vista virologico. Allora, grande, veniamo all'Italia rapidamente. Grande successo per il collocamento del BTP, sindacato a 10 anni, che è stato annunciato ieri dal MEF. Sono arrivati ordini per 108 miliardi, avrà un tasso di riferimento di 9 punti più alto rispetto al tasso di riferimento base, e devo dire che l'accoglienza è stata ottima. Lo Stato probabilmente avrà un collocamento di 14 miliardi, ma appunto la domanda da record, 108 miliardi. Veniamo invece alla parte che riguarda i prestiti all'impresa, le persone, le partite IVA. Dunque, prima notizia, domani 22 categorie di professionisti protesteranno sui social network perché si considerano discriminate dai due decreti, sia Rilancio che il Cura Italia, perché la norma che va a erogare imprenditori, lavoratori autonomi e titolari di partita IVA un parziale rimborso delle perdite esclude quella, diciamo, del rimborso a fondo perduto che abbiamo spiegato, cioè fino a 400.000 euro lo Stato ti dà il 20% della differenza tra l'incasso che hai avuto ad aprile rispetto all'incasso che hai avuto ad aprile 2019, deve però essere il calo superiore al 33%. Poi cambia, si riduce la parte che ti dà lo Stato, il 15% fino a 1 milione e il 10% fino a 5 milioni. Faccio notare però che è un 10% netto, quindi è un po' più alto se tu pensi come impresa al lordo che avresti dovuto sviluppare per avere i costi che avresti avuto per avere quel valore. Sono però esclusi gli iscritti alle casse degli ordini, che hanno potuto ricevere i 600 euro, ma non potranno ricevere gli investimenti, diciamo, a fondo perduto del governo, che ammontano complessivamente a 6 miliardi e 400 milioni, perché, ha chiarito la norma, sono destinate alle imprese e non ai professionisti. E domani vi sarà questa protesta. Nel frattempo i dati sui prestiti, dunque le moratorie sui prestiti, che sono un'altra cosa, cioè la sospensione del pagamento delle rate, ha raggiunto a 2.400.000 soggetti per un totale di 260 miliardi. Superano la quota di 480.000 le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le piccole e medie imprese. Quindi, da un lato le moratorie, cioè chi ha chiesto la sospensione del pagamento delle rate, è pari a 2.400.000 soggetti per un valore di 260 miliardi. Lo so che è una misura anche questa tampone, perché tu sostanzialmente sospendi la rata, è come di fatto se andassi un po' a allungare la scadenza per 2 mesi. Meglio che niente, perché almeno non hai dovuto tirare fuori i soldi a marzo, ad aprile, non è che non paghi più quella rata, allunghi, diciamo, la rateizzazione, mettiamola così. Altra cosa, le domande di finanziamento bancario. Allora, sono 480.000, di cui 440.000 sono per i finanziamenti fino a 25.000 euro, quelli coperti dallo Stato, garantiti dallo Stato al 100%, per un importo di 9 miliardi. Invece, con Garanzia Italia e la SACE, sono state concesse garanzie per 418 milioni di euro su 44 richieste ricevute. Il presidente dell'ABI, Patuelli, oggi ospite Radio 24, con Simone Spezia e Maria Ratella, ha ribadito che le banche non possono utilizzare i soldi che lo Stato, su cui lo Stato mette la garanzia, quindi 25.000 euro, per fare pagare, diciamo, vecchi prestiti. Era successo anche questo, che dicesse: allora, hai un prestito con me da 30.000 o da 10.000, usiamo parte. No, perché quelli sono prestiti contratti tra te e la banca, dove la banca ha un tasso di interesse che va a remunerare il rischio credito. I 25.000 euro sono garantiti da tutti gli italiani, dalle tasse degli italiani, quelli che le pagano, e quindi dallo Stato italiano. Non puoi scambiare, cioè non puoi socializzare il rischio e capitalizzare gli utili. E lo ha ribadito il presidente dell'ABI, Patuelli, sentiamo. Questo non è corretto, e tant'è che l'Associazione Bancaria Italiana con grande tempestività ha specificato che questa sostituzione non può avvenire. C'è una possibilità in altro articolo del decreto di liquidità di effettuare delle ristrutturazioni a richiesta, sottolineo richiesta, del cliente con un aumento di prestiti di almeno il 10%. La norma nella sua complessità è ampia, per essere precisi, e dà molte possibilità. Il problema è che va applicata in combinato disposto con tutte le complesse normative antecedenti e la semplificazione che sta arrivando deve ancora entrare in vigore e lo entrerà, immagino, attorno al 7-8, tra una settimanetta, appena andrà in Gazzetta Ufficiale. Allora, poi passiamo invece al giorno delle riaperture e veniamo ai dati sulla disoccupazione. Due notizie ancora, anzi una sulla scuola, non voglio ritornare a incavolarmi, però ho già fatto la battuta che insomma in Inghilterra aprono prima le scuole dei pub, qui abbiamo aperto prima gli spritz delle scuole, ma va ben così per modo di dire. Il ministro dell'istruzione ha convocato per domani il tavolo per la riapertura delle scuole a settembre. Ho chiesto un tavolo allargato, ho detto al ministro Azzolina, per domani pomeriggio. Ringrazio il Presidente del Consiglio Conte che presiderà l'incontro. Io spero che il Governo abbia ben presente, come ci ha detto di avere ben presente il Vice Ministro di Istruzione Ascani, il danno anche sul consenso, quindi il danno politico che il Governo sta ricevendo per la gestione della riapertura scolastica, soprattutto se continua così. Se il Ministro Azzolina ha bisogno di un aiuto, oltre che il Comitato Tecnico Scientifico, lo dica. Meno male che domani partecipa il Presidente del Consiglio, perché c'è stato il silenzio, stiamo ancora cercando, non è colpa dell'Azzolina se ci sono alcuni interni che non vogliono fare i commissari in Lombardia, io penso che vadano, li ho visto, precettati e sanzionati, perché o tu veramente hai un motivo valido o se no non è che tutte le altre categorie hanno riaperto, tu sei al 100% dello stipendio, non vuoi neanche fare la maturità in presenza, dai. Comunque, i sindacati hanno confermato lo sciopero dell'8 giugno, anche se la Commissione di Garanzia aveva invitato i sindacati a revocare la mobilitazione. E oggi sono partiti i primi esami di terza media, appunto con le norme anti-Covid. Quindi gli studenti discutono gli elaborati, le tesine online. E vabbè, è così andata. (349) 238 6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Qualcuno mi dice, ma hai visto la risposta della virologa capo ieri sera da Floris su perché il CTS non ha riaperto la scuola? No, me la sono persa, ma non aggiungo altro, perché diciamo ho ascoltato i virologi italiani in questi mesi con molta attenzione. Adesso ritengo che il loro prossimo compito sia continuare a lavorare in laboratorio e non in televisione, e personalmente ascolto con più interesse i clinici, cioè chi sta negli ospedali e ci racconta, dagli infermieri del 118 che ci scrivono ai medici, ci racconta come stanno arrivando i casi, con che gravità e quant'altro, perché insomma, poi ognuno di noi non è che può parlare 20 volte al giorno e dire cose nuove. L'approccio dei virologi lo abbiamo capito, e abbiamo capito anche che c'è ancora molta incertezza da parte loro, quindi intanto guardiamo l'attività clinica, come va, chi viene ricoverato, senza polemica con i virologi. Però qualcuno mi ha scritto, ma è la TV che ha reso i virologi delle star? Sì, sicuramente il circo mediatico è anche questo, poi sta a te sapere se ci vuoi andare, come ci vuoi andare, se chiedi soldi per andarci, se hai qualcosa da dire, oppure se tutto la TV ti può invitare, non è che è un obbligo. Poi lì scattano altri meccanismi, la vanità, la vanagloria e quant'altro. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Lo dico da giornalista che in TV va per fare giornalista. Quando un medico va in TV immagino che abbia valutato esattamente quello che ha da dire e la rilevanza di quello che ha da dire e se vi sono cose nuove da dire. Meteo. Focus Economia. Allora, le riaperture che tanto entusiasmano la borsa, dall'8 giugno Air France riprenderà i voli anche su Napoli, Qatar Airways riprenderà i voli Venezia-Doha dal 15 luglio però, non dall'8 giugno come Air France. Il Belgio riaprirà le frontiere ai paesi della Schengen il 15 giugno, noi abbiamo riaperto il 3 giugno, cioè oggi. L'Austria non vuole riaprire i confini con l'Italia, apriamo verso 7 paesi confinanti, i dati non lo consentono invece con l'Italia, ma intendiamo farlo il prima possibile. Non è una decisione contro l'Italia, ha sottolineato il ministro degli esteri Schallenberg. L'Unione Europea ha detto all'Austria non discriminare sulla nazionalità. Di Maio, il ministro degli esteri, ha detto l'Austria gli individualismi danneggiano. Il presidente della provincia autonoma di Trento, Fugatti, ha detto è incomprensibile la decisione dell'Austria sui confini. Anche perché la Germania dal 15 giugno riapre tutti i viaggi in Europa ai tedeschi, anche in Italia, questa è l'intenzione dichiarata dal ministro degli interni. E poi i dati italiani, da una settimana devo rispondere a un ascoltatore, dice ma come lei che fa giornalista, che parla in, sì appunto sono mestieri diversi tra il virologo e il giornalista, io non ho detto che i virologi non debbano andare in televisione, ho detto spetta a ognuno di noi calcolare quanto ci va, non si può dare la colpa solo agli inviti e soprattutto se hai cose da dire, se sono cose con cui non ti contraddici. Comunque adesso non voglio andare avanti con i virologi su. Dicevo, torniamo alle aperture, questo è il fronte europeo, poi il fronte italiano. Da una settimana la Basilicata è a contagi zero, nessun contagio in Umbria, anche lì 8 giorni senza nuovi contagiati. In Veneto da oggi le frontiere sono aperte, siamo covid free, ha detto il governatore Luca Zaia. La Sardegna, Solinas, è pronta a riaprire, è pronta ad accogliere i turisti, farà anche una campagna sulla sicurezza, sulla Sardegna, su pochissimi casi della Sardegna, in campagna internazionale, però registrazione obbligatoria e non volontaria per chi arriva in Sardegna con un questionario che traccia anche gli eventuali spostamenti interni, mentre oppure attraverso l'app Sardegna Sicura, in quel caso è volontaria. Allora, com'è andata la ripartenza oggi? Abbiamo mandato i nostri inviati nelle due, per carità, abbiamo fatto anche, coperto anche Napoli e altre stazioni. È chiaro che l'attenzione più grossa era sulle stazioni delle ferrovie, le stazioni ferroviarie, e usiamo come riferimento Milano Centrale e Roma Termine. Allora, la nostra Anna Marino questa mattina è andata a raccogliere le voci, i vox populi di chi si stava imbarcando in treno da Milano Centrale. Dove state andando? Napoli. Era tanto che aspettavate questo momento? Sì, tantissimo. E torniamo un po' dalla nostra famiglia. Non vediamo l'ora di rivederli. A grado. E abbiamo la casa lì, andiamo a trovare la parte della famiglia. Ovviamente questa è la prima volta che viaggiate, rimarrete là, cosa fate? Cosa avete deciso? Andiamo là per un po'. Andiamo via, a fare una gita finalmente. Sì, finalmente, è ora. Sì. Io sto andando a Bologna, dopo 3 mesi mi ricongiungo con il mio moroso, dovevamo sposarci quest'anno ma forse è tutto rimandato per colpa del coronavirus. A quando? E adesso abbiamo pensato a settembre, però devo sposarmi tra 16 giorni. Più che vacanza sto tornando a casa, io sono calabrese, dall'inizio della pandemia, sì. E io sono un ballerino, quindi teatri, io lavoravo in crociera. E poi dicevo, il nostro Andrea Viali invece è andato alla stazione Termini sia per la ripresa degli arrivi da Milano ma anche gli spostamenti tra Roma e Napoli, Roma e Bari, Roma e Venezia, Roma-Padova, Roma-Verona. Dove state andando? Napoli, per la famiglia, abbiamo casa lì. Da quanto è che non andate a Napoli? Da Natale. Avete approfittato? Dell'apertura tra le regioni siamo scappati. Era da tanto che mancavamo, quindi ci stavo. Sto attraversando l'Italia. Da dove arriva? Dove deve andare? Ventimiglia, Reggio Calabria. Farmi operare agli occhi, che su al nord ci vuole un anno. Dove sta andando? Milano, per motivi familiari. È da molto che non va a Milano? Sì, da febbraio. Sto andando a trovare la mia ragazza ad Alassio. È da tanto che non la vede? Abitavamo a Londra insieme e sono più un mese che non la vedo. Approfitto della ripresa pure per andare a trovarla e farmi un po' di vacanza al mare. Due anni e mezzo che non vedo mare e non vedo sole da Londra, quindi sono contentissimo, veramente. Vabbè, questo addirittura due anni e mezzo. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Non ho più nessuna intenzione di far polemica sui virologi, inutili che qualcuno continui a scrivermi. È chiaro a tutti la differenza tra un virologo e a chi vive in televisione, non so, una starlet piuttosto che un comico o quant'altro. Andiamo sul meteo e pubblicità, anzi sì, meteo e pubblicità o traffico. Che per meglio dire traffico, visto che metro abbiamo appena sentito. Vai. Focus Economia. Dunque, i dati di oggi dell'Istat su occupazione, disoccupazione e inattivi nel mese di aprile. Ripeto, può sembrare paradossale perché l'Istat certifica una disoccupazione che scende al 6,3%. Perché? Perché ci sono 484.000 persone in meno che cercano lavoro, non perché l'abbiano trovato, ma perché semplicemente sono scoraggiate dall'idea di cercarlo e quindi i disoccupati, ripeto per la terza volta, sono solo quelli che tra quelli che stanno cercando un lavoro non l'hanno trovato, e invece gli occupati sono tutti quelli che lavorano, fatto 100 la forza lavoro. Qual è la differenza? Che nei disoccupati non vanno gli inattivi, cioè gli scoraggiati, o chi per motivi suoi, una volta prima del Covid poteva essere anche un calcolo rispetto all'offerta di lavoro che avevo ricevuto, che sapevo che c'era, mi conveniva stare a casa e risparmiare altre forme di spese. Ma in questo caso il dato è molto chiaro, ci sono 484.000 persone che hanno smesso di cercare lavoro, ci sono 274.000 occupati in meno e guarda caso ci sono gli inattivi, cioè chi non sta né cercando lavoro e chiaramente non ce l'ha, salgono a 746.000. E devo dire che il calo dell'occupazione è il più forte da quando misuriamo le serie storiche, cioè i 274.000 occupati in meno non si erano mai visti. Pensate che la riduzione più forte è stata a settembre del 2009, appunto, ma ci si fermò a 125.000, cioè la metà rispetto a quello che è successo ad aprile sul mese di marzo. Allora, un primo commento su questo lo ha ottenuto la nostra Livia Zancaner con Roberto Monducci, direttore del Dipartimento Produzione e Statistica dell'Istat. I dati relativi al mese di aprile sul mercato del lavoro segnalano una forte diminuzione dell'occupazione su base mensile. Abbiamo meno 1,2% rispetto a marzo, pari a 274.000 occupati in meno. La diminuzione coinvolge sia le donne sia gli uomini e comunque è generalizzata a tutte le tipologie contrattuali e a tutte le classi di età. Parallelamente abbiamo una conferma di un fenomeno già abbiamo visto a marzo, quindi la riduzione delle persone in cerca di lavoro. Questo è un fenomeno che può essere messo in relazione alla scarsità di opportunità di lavoro in questa fase, soprattutto a marzo-aprile quando c'era il lockdown pieno delle attività produttive, quindi le persone non avevano nessun tipo di stimolo a cercare lavoro perché dal lato della domanda di lavoro c'era un blocco, e quindi i dati sull'aumento degli inattivi e la diminuzione delle persone in cerca di lavoro si spiegano con questa situazione particolarissima della domanda di lavoro. però direi che si tratta di un fenomeno largamente atteso, cioè l'impatto sul mercato del lavoro, almeno nei mesi del lockdown, era solamente scontato. Meno scontato era il calo della disoccupazione, quindi è prevalso l'aspetto, diciamo, legato alla mancanza di opportunità di lavoro. Adesso la partita si giocherà ovviamente sul mese di maggio e quelli seguenti, in cui la domanda di lavoro in qualche modo è ripresa, l'attività produttiva è ripresa e dobbiamo vedere l'evoluzione del mercato del lavoro alla luce di queste nuove opportunità. E da qui vorrei ripartire, perché insomma è chiaro che aprile su marzo non poteva essere addirittura talmente falsato il dato che cala la disoccupazione, poi vediamo che crolla l'occupazione. Diceva giustamente Monducci in maniera generica, perché generalizzato coinvolge donne come uomini, 143.000 donne occupate in meno, 131.000 uomini occupati in meno, dipendenti 205.000 come indipendenti, 69.000 in meno, e tutte le classi d'età. In proporzione il calo più forte interessa i dipendenti a tempo determinato, meno 129.000, un calo del 4,6%. Francesco Seghezzi, direttore della Fondazione ADAPT, Centro Studi sul Lavoro e Occupazione, fondato da Marco Biagi. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, Seghezzi, ripartiamo dall'ultimo commento di Monducci, e ci dice: guarda, questi dati erano quello che ci aspettavamo. Ad aprile il paese era sostanzialmente, non dico tutto chiuso, perché più o meno l'Istat aveva calcolato un 48% delle imprese manifatturiere che erano in deroga, appunto, potevano rientravano nei codici Ateco e potevano lavorare. Però il mondo del commercio era tutto chiuso, il mondo dei servizi idem e quant'altro. La cosa che dice l'Istat è: adesso sarà fondamentale il dato di maggio, perché dal fine aprile al 4 di maggio hanno riaperto tutte le attività manifatturiere, dal 4 di maggio hanno riaperto ristoranti e bar con l'asporto, e dal 18 c'è anche tutti gli esercizi commerciali sono riaperti. Chiaro che un mese ancora interstiziale, però sul mese di maggio sarà fondamentale capire qual è il tasso di rioccupazione, o rischia di essere falsato dal fatto che per le imprese, per esempio, c'è il blocco ai licenziamenti. Guardi, io credo che non sia così fondamentale il dato di maggio quanto sia il dato di agosto, che è proprio quello, la data in cui scadono diciamo una buona parte delle settimane di cassa integrazione e soprattutto il blocco dei licenziamenti, perché comunque parliamo il mese di aprile, sì, della metà delle aziende chiuse, ma con il blocco dei licenziamenti e con la cassa integrazione rifinanziata. Quindi diciamo che questo dato è un dato soprattutto determinato da contratti a termine che sono scaduti e quindi che non sono stati rinnovati. Quindi qui non vale il blocco dei licenziamenti, e io credo che questa dinamica è probabile che proseguirà per almeno un altro 2 o 3 mesi, perché in questo momento è una delle, adesso lo dico proprio cinicamente, poche modalità di riduzione del costo del lavoro è quello di non rinnovare i contratti, visto che non si può licenziare. No, questo lo dico perché mentre negli Stati Uniti, l'abbiamo già commentato, si scarica nell'arco di una settimana o due, sarà già scaricato su tutto il mercato del... Noi qui abbiamo la cassa integrazione, quella ordinaria, che ha funzionato soprattutto grazie all'anticipazione degli imprenditori, anche sulla straordinaria, quella in deroga che sta funzionando male per via del modo in cui è stata concepita. Adesso col secondo decreto, quello, diciamo, ristoro, come ho chiamato io, viene semplificato, cioè si va direttamente all'INPS per il 40%, però diciamo l'avere la cassa integrazione sposta in là i dati effettivi. Oddio, dovrebbe poter dare anche più tempo a chi riesce di rimettersi in piedi e non arrivare poi ai licenziamenti, però sicuramente dilaziona il dato. Il vero nodo è questo, è come se le imprese avessero fino ad agosto per capire se effettivamente ripartono o no. Sì. L'obiettivo sarebbe quello che il blocco dei licenziamenti è a fine agosto, perché nel frattempo l'economia riparte, quindi quando si sblocca non c'è necessità di licenziamento. La vera scommessa è tutta lì: capire quando arriveremo a quella fase di sblocco, se la domanda sarà tornata ai livelli tali per cui il livello di occupazione attuale è ancora sostenibile, o se invece non lo è più. Sì, allora, di per sé stessa non è sbagliato come strumento, cioè tu più tempo dai a un'impresa per capire se più possibilità hai che l'impresa non licenzi. Detto questo, poi non dipende, scusatemi, solo dal tempo che dai, ma dipende poi dalle condizioni di mercato, perché poi se invece tu fatturati e ordinativi vanno giù, i ricavi pure, lì non hai altre. Però diciamo sempre meglio avere da marzo fino ad agosto che non dover decidere cosa fare a maggio, ecco, per farmi capire, che allora lì sarebbe stato un'ecatombe ulteriore. L'altro elemento però riguarda i settori. È vero che c'è un calo generalizzato, però è innegabile, Seghezzi, che per esempio i tempi determinati hanno avuto un dato più alto. Esatto, perché come dicevo, quelli scadono, non c'è bisogno di licenziamento. Se un contratto a termine scadeva a fine marzo, semplicemente non è stato rinnovato. Adesso il nuovo decreto fa, diciamo, delle deroghe al decreto dignità, per cui sarà più facile poter rinnovare senza dover mettere la causale, ma io temo che il mancato rinnovo in questo caso non sia tanto per la paura della causale, quanto proprio perché è una delle poche modalità di riduzione del costo del lavoro anche in prospettiva futura, di quando la cassa integrazione non sarà più utilizzabile in larga scala come adesso. Tant'è che se andiamo a prendere i dati, in questo caso dell'ANPAL, quindi del Ministero del Lavoro in ultimo, si vede che ogni mese, alla fine di ogni mese, c'è un calo netto dei contratti a termine, che sono esattamente quelli che scadono, perché di solito quando si appone la scadenza la si appone alla fine di un qualsiasi mese dell'anno. Per cui è una fetta di mercato del lavoro che oggi paga. Quando si dice nessuno perderà il posto, purtroppo non è vero, non è così, perché i contratti a termine invece hanno... Oddio, io ho una crisi economica in cui nessuno abbia perso il posto, non l'ho ancora vista in natura. Purtroppo spero di essere smentito, spero che il tasso di recupero delle attività produttive, sia manifatturiere che dei servizi, che del commercio, sarà fortissimo e mi sorprenderà. Però ahimè, nella mia esperienza, anche per crisi più morbide, purtroppo una parte si scarica sui posti di lavoro. Poi diventerà fondamentale, Seghezzi, per concludere, però, anche in che tempi recuperi questi posti di lavoro, perché cioè non è un dato fisso. Allora mettiamo che vi sia stato in alcuni settori, ammettiamo, sappiamo già che purtroppo sarà così, io continuo a citarli: turismo, ristorazione, ristoranti, commercio, che vi sarà una grossissima difficoltà a recuperare anche quote vicine a quelle dell'anno scorso. Poi sarà fondamentale capire il recupero nei mesi successivi. Sì, noi avremo sicuramente un periodo di transizione, dato dal fatto che in alcuni settori ci sarà un calo della domanda che durerà un po' di tempo. Negli stessi settori probabilmente ci saranno anche tante crisi aziendali, tante chiusure aziendali, e in attesa che auspicabilmente la domanda torni a crescere, ci sia un turnover, per cui per intenderci chiude un ristorante e ne riapre un altro, ci vuole una transizione, evidentemente non può accadere dall'oggi col domani. Quindi la problematica principale sarà, e qui il mercato del lavoro italiano e le politiche del lavoro italiano sono debolissime da sempre, la gestione della transizione. Noi siamo molto, siamo abituati a tutelare i posti, ma non a tutelare i lavoratori quando sono invece sul mercato e non sanno cosa fare per andare da un posto all'altro, per fare nuova formazione, per riqualificarsi. Senta, la domanda è facile: e il reddito di cittadinanza, visto che io l'ho sempre elogiato su, come misura di welfare, cioè per chi non arriva a fine mese occorre dare una specie di reddito di inclusione, come si chiamava una volta, fatto meglio, l'ho sempre criticato completamente come misura di attiva di politica del lavoro, cioè secondo me non troveranno lavoro con i 3.000 navigator. Lei invece si attende che arrivi qualcosa dal reddito di cittadinanza nella formula non di welfare, che secondo me è utile, ma di politica attiva del lavoro? Purtroppo è abbastanza evidente a tutti che se le cose non cambiano, no, nel senso che ad oggi i navigator non stanno lavorando fondamentalmente, e non c'è la struttura tale per cui si possa individuare posti di lavoro per le persone. Se poi ci sarà un momento in cui ci saranno tantissimi posti di lavoro in più perché ci sarà una grande ripresa della domanda, c'è la possibilità che qualcuno passi anche da lì. Ma ad oggi, per com'è la situazione, per come sono diversificate le regioni, per come... Ma perché non si mette in discussione proprio navigator e quota 100? Non capisco. Comunque, vabbè. Senta, Seghezzi, grazie anche per queste spiegazioni. Devo andare su GR24 adesso, però... E poi parleremo dei dati che escono e vediamo se inizierà in orario l'intervento del Presidente del Consiglio Conte. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. 18 e 7 minuti, allora ascoltiamo, ha iniziato da due minuti il suo intervento il Presidente del Consiglio Conte, che ha appena ricordato che gli ultimi dati sono incoraggianti, poi li ricorderò anch'io, infatti sono usciti anche i dati della Protezione Civile, ma sentiamo... Le uniche misure oggi efficaci a cui affidiamo l'opera di contrasto della diffusione del virus sono il distanziamento fisico e l'utilizzo, ove necessario, delle mascherine di protezione. Abbandonare quindi il rispetto di queste precauzioni, perché si ritiene, ad esempio, che oggi il virus sia scomparso, è una grave leggerezza, completamente smentita anche dai dati dei contagi, che pur in calo continuano ovviamente ad essere registrati quotidianamente. L'altra notizia importante è che oggi anche i turisti europei possono viaggiare verso l'Italia, possono visitare il nostro paese senza sottoporsi a quarantena. In particolare i ministri Di Maio, Franceschini, Speranza, Mendola stanno facendo un gran lavoro in Europa e non solo, sul piano diplomatico, per assicurare che il nostro paese torni immediatamente a essere la meta sicura. Ma nel frattempo, visto che questa parte era stata anticipata anche dalle notizie, do i dati della Protezione Civile. Allora, le vittime sono 71 più di ieri, i guariti 846, i nuovi contagiati sono bassi, 321. La cosa significativa però è che il 74% sono in Lombardia. Ci sono 8 regioni senza zero contagi, che sono Sicilia, Friuli, Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. I malati sono 596 meno di ieri, appunto 12 regioni senza nuove vittime, e quindi i dati sono confortanti, come diceva Conte. Resta il tema della Lombardia, bisogna vedere anche però il numero di tamponi effettuati, però, e Conte ha appena detto ci meritiamo la socialità ritrovata, e ha ricordato pochi istanti fa che da oggi i turisti europei possono venire in Italia. Abbiamo riconosciuto alle partite IVA, ai liberi professionisti, ai commercianti, agli artigiani, ai lavoratori dello spettacolo, anche agli stagionali del turismo, ai lavoratori agricoli, bonus sino a 2.200 euro per 3 mesi per riduzione di attività o fatturato. Non era successo mai prima nella nostra storia, ma ci rendiamo conto dei ritardi, ci rendiamo conto che ci stiamo confrontando con una legislazione, con un apparato statuale che non era affatto pronto ad effettuare erogazioni così generalizzate in così poco tempo. Di questi ritardi ho chiesto già scusa e stiamo lavorando ancora, abbiamo già fatto un nuovo decreto rilancio per rendere più celeri queste procedure, per pagare più velocemente bonus e ammortizzatori sociali. Ma queste misure sono solo l'inizio di un percorso di rilancio del nostro Paese. Dobbiamo continuare a intervenire per tanti settori che sono in grave sofferenza. Penso a alcune filiere della manifattura, penso al settore del turismo, dello spettacolo. Ne cito alcuni, ma queste sofferenze riguardano interi e ampi settori del commercio, dell'artigianato, le piccole aziende. Dobbiamo tornare a intervenire con nuove misure ancora più efficaci, e questo riguardano anche il breve periodo. Però questa crisi deve essere anche l'occasione per disegnare il paese che vogliamo, per rilanciare e rinnovare l'Italia dalle fondamenta, per superare tutti quei problemi strutturali che si trascinano da tempo e che stiamo, ad esempio, verificando anche in questi mesi dell'emergenza. Dovrà essere un nuovo inizio. E qui recupero le parole pronunciate dal Presidente Mattarella in occasione della Festa della Repubblica. Abbiamo il dovere di agire con lo spirito del 2 giugno. Dobbiamo agire nel segno della condivisione, della serietà, dell'impegno che caratterizzò i nostri padri, i nostri nonni, che lavorarono per un Paese migliore, per la rinascita del nostro Paese. Abbiamo un'occasione storica. La Commissione europea, grazie anche all'aiuto dell'Italia, al sostegno dell'Italia, possiamo dirlo con forza, ha messo sul tavolo una proposta da 750 miliardi con il Recovery Fund, che renderà disponibili quindi risorse ben consistenti in via del tutto straordinaria, soprattutto a favore dei paesi e dei settori più colpiti, tra cui l'Italia. Noi dovremo cogliere questa opportunità e saper spendere bene questi soldi. E proprio, vedete, sulla capacità di spesa, sul progetto di paese che elaboreremo, che sapremo realizzare, si misurerà anche la forza, la credibilità non solo e tanto del governo, ma del sistema Italia. Stiamo lavorando, abbiamo già iniziato a lavorare a questo piano di rinascita, a questo recovery plan, che poggerà su vari pilastri e dovrà raggiungere vari obiettivi. Io ne ho anticipati già alcuni. Dovremo modernizzare il Paese, lavorando per la digitalizzazione, per incrementare i pagamenti elettronici e contrastare per questa via l'economia sommersa. Dovremo lavorare all'innovazione. Dobbiamo rendere a portata di tutte le famiglie la banda larga per tutto il Paese. Dobbiamo inoltre lavorare per capitalizzare, per sostenere le nostre imprese, le nostre filiere, le nostre soprattutto piccole e medie imprese, consolidarle. Dobbiamo rendere strutturali, ad esempio, nel piano industriale che andremo a delineare, misure come ACE, Impresa 4.0. Dobbiamo rilanciare gli investimenti, pubblici e privati, tagliando la burocrazia. Dobbiamo investire nelle grandi reti telematiche, idriche, energetiche. Dovremo accompagnare tutte le nostre imprese, tutto il sistema Italia, verso una decisa, vigorosa transizione verso un'economia sostenibile, una transizione energetica. Dobbiamo puntare forte, come mai è stato fatto in passato, per il diritto allo studio, per innovare l'offerta formativa. Abbiamo dato già dei segnali molto significativi. Andremo a bandire migliaia di posti per nuovi ricercatori. Offriremo la possibilità ai nostri giovani brillanti che sono all'estero di venire a fare ricerca qui in Italia. Dobbiamo investire ancora di più nelle tecnologie digitali, nella scuola. I tempi della giustizia civile e penale non sono accettabili. La media di un processo oggi sconsiglia a investitori a venire in Italia, a impelagarsi in controversie giudiziarie che durano anni. Io l'ho già detto, non è accettabile avere un codice civile che risale al 1942 e che da allora non ha mai subito una riforma organica. Stiamo parlando, peraltro, di progetti di riforma, disegni di legge delega che sono già presso le commissioni competenti del Parlamento. Quindi chiedo davvero a tutte le forze politiche di lavorare per realizzare al più presto questi disegni. Se questi progetti verranno approvati, potremo subito emanare decreti legislativi e attuare queste riforme. Poi occorre una seria riforma fiscale. Il nostro fisco è iniquo, è inefficiente. Vogliamo tutti pagare meno, ma per fare questo dobbiamo mettere mano a una seria riforma e anche su questo stiamo lavorando. E poi dovremo lavorare meglio per sostenere le imprese, per sostenere le persone che sono ai margini del nostro circuito sociale e lavorativo. Dobbiamo lavorare anche sull'inclusione e contrastare le diseguaglianze. Insomma, è un progetto di paese molto impegnativo, ma dobbiamo essere consapevoli che la somma che ci viene messa a disposizione, la somma che l'Europa metterà a disposizione dell'Italia, non potrà essere considerata un tesoretto di cui potrà disporre liberamente il governo di turno, il governo in carica. Questa somma deve essere intesa come una risorsa messa a disposizione dell'intero Paese, di cui il governo in carica ha sicuramente la responsabilità di spesa sulla base di un progetto lungimirante condiviso con tutte le migliori forze del Paese. Ed è per questa ragione che intendo convocare a Palazzo Chigi al più presto, per una settimana, dobbiamo far presto, tutti i principali attori del sistema Italia, parti sociali, associazioni di categorie, singoli menti brillanti, per avere un confronto, raccogliere le loro idee, i loro suggerimenti. Abbiamo già una base di lavoro tecnico costituita dal report che ha elaborato il Comitato Socio-Economico coordinato dal dottor Colao, che consegnerà in questi giorni i suoi lavori, che ha avuto un serrato confronto con tutti gli stakeholders del sistema Italia. Ora siamo nella fase finale, è necessario quindi un confronto aperto sulle nuove proposte, sulle nostre idee, sul progetto di rinascita dell'Italia. La fase, vedete, della negoziazione europea è una fase che peraltro non si è conclusa, è stata molto dura e sicuramente sarà dura sino alla fine, ma sono consapevole che la fase di elaborazione e messa a punto e realizzazione di un progetto davvero utile per il nostro Paese è forse ancora più dura, perché richiede coraggio, lungimiranza, grande determinazione nel superare resistenze al cambiamento, ricostruzioni di parte, visioni riduttive. Faremo quindi di tutto, realizzando progetti piccoli e grandi. E concludo con un piccolo esempio. Oggi è partito il Frecciarossa, per la prima volta, da Torino a Reggio Calabria. Ebbene, le nostre infrastrutture, queste materiali, hanno ancora un lungo percorso da realizzare. Dobbiamo lavorare all'alta velocità di rete. Noi dobbiamo realizzare, per esempio, la doppia linea da Pescara a Lecce. Dobbiamo realizzare l'alta velocità in tutta la Sicilia. Dobbiamo realizzare l'alta velocità da Roma a Pescara, da Reggio Calabria a Taranto, lungo la costa ionica, e così via. Abbiamo tanto da fare, abbiamo da interconnettere il nostro sistema delle infrastrutture viarie con quello portuale e aeroportuale. Dobbiamo, assolutamente l'ho detto, realizzare la banda larga e digitalizzare tutto il Paese. Tutti insieme ce la possiamo fare e sono sicuro che ce la faremo. Grazie. Allora, questa è la conferenza stampa del Presidente del Consiglio, adesso iniziano le domande. Dunque, Conte ha detto tante cose, per carità, si è scusato per i ritardi nell'erogazione delle misure di emergenza, i 2.200 euro che, dice, sono andate agli artigiani, operatori del turismo e del mondo dell'agricoltura, è la somma dei 600 euro per le partite IVA di marzo, 600 euro di aprile e i 1.000 euro promessi per quello che riguarda maggio. Lo dico perché sennò i 2.200 euro sembravano una cifra così. È vero che nessun governo li ha mai messi nelle tasche degli italiani, è vero anche che non bastano. Mi sembra un discorso però tutto orientato alla quella che ho chiamato terza fase, cioè immaginando che la prima fase sia stata quella della chiusura del paese, la seconda fase quella della riapertura scaglionata del paese, quindi dal 4 maggio al 18 maggio fino adesso al 3 giugno, quindi anche con la riapertura della mobilità interregionale e l'apertura agli altri paesi europei. La terza fase è quella, continuo a dire, è quella che dovrà riguardare in maniera ancora più specifica, non a pioggia, non in maniera emergenziale, i settori. Devo dire che Conte ha ricordato alcuni di questi settori, il turismo, il commercio, gli spettacoli e anche alcune attività di impresa. Mi è sembrato un intervento tutto mirato a dire l'Italia deve farsi trovare preparata all'utilizzo del Recovery Fund, io aggiungo anche del MES, visto che il MES per motivi sanitari, per motivi di Covid, ci farebbe risparmiare 500 milioni di interessi all'anno rispetto a ottenere gli stessi soldi sul mercato, cioè con un'emissione di obbligazioni, visto che i tassi di interesse sono bassissimi. Però vorrei collegarmi adesso con Gianni Trovati, adesso alle 24 ore. Buonasera Gianni. Buonasera, ecco, a voi. Per il resto, diciamo, come impianto complessivo mi sembra tutto legato adesso all'appuntamento con l'Europa, diciamo, dobbiamo dimostrare, ha detto Conte a un certo momento, la credibilità dell'Italia deriverà da come spenderemo i soldi sull'Europa, aggiungo io, fino adesso non è che le regioni italiane abbiano brillato per capacità di spesa e con un progetto complessivo del paese. Io su questo sono d'accordo, è chiaro che adesso però bisogna vedere il cammello, cioè bisogna vedere la ciccia, perché siamo tutti d'accordo che il paese aveva delle sacche di inefficienza, dalla giustizia civile oltre che penale, dalla lentezza della macchina burocratica e anche dall'estrema, diciamo, bizantinismo della macchina burocratica. Lui ha citato anche il tema infrastrutturale, mi fa piacere che abbia citato l'alta velocità di rete sia come banda larga che come rete delle infrastrutture ferroviarie. Ha dimenticato, ma lo dico solo per inciso, la Padova-Venezia, che anche quella, scusatemi, la Verona-Venezia sull'alta velocità che concluderebbe la T, ma ha fatto bene a ricordare l'esigenza anche di estendere in altri punti del paese. E Gianni, forse se devo fare il giornalista, se ci riesco, la cosa più importante come notizia mi sembra la convocazione a Palazzo Chigi di tutti gli attori del sistema, come li ha chiamati lui, dalle parti sociali alle menti brillanti, immagino che a questo punto ci sarai anche tu, e per avere, diciamo, un piano maggiormente condiviso. Forse come notizia più forte è il fatto che il rapporto di Colao sul Comitato Tecnico Economico arriverà nei prossimi giorni. Sì, allora il punto è esattamente questo, è una evidente autocandidatura del Presidente del Consiglio. Dice: vi ho guidati nei mari agitati della fase 1 e della fase 2 e quindi ora guiderò il Paese nella fase 3, in quella del rilancio e del vastissimo elenco programmatico che è stato appunto citato per titoli, perché poi il punto è: bisogna arrivare pronti all'appuntamento con l'Europa, ma bisogna anche capire, e questo è ancora in dubbio, in che data va segnato sul calendario questo appuntamento, perché lo stesso Conte all'inizio ha detto che servono e servono subito nuovi interventi per i tanti settori in crisi ai quali il decreto cosiddetto rilancio non da fondi sufficienti, ma se servono subito non possono essere fatti con i fondi del Recovery Fund, che se e quando ci sarà sicuramente non sarà subito. Quindi questo è il grande interrogativo. E si chiama MES la risposta, è inutile che ci giriamo attorno, dai, perché so che i 5 Stelle hanno ancora un po' di mal di pancia, altri non hanno capito, però gira e rigira, perché dico perché è vero che vanno utilizzati per le spese sanitarie dirette o indirette, ma è chiaro che se tu dirotti i soldi del MES su alcune spese sanitarie non devi più usare soldi, diciamo, italiani, no? Eh beh sì, diciamo che la soluzione del MES è quella che troneggia sull'orizzonte No, mi è sparito Trovati, così troneggia sull'orizzonte, però qualcuno mi chiede conferma del risparmio. Sì, a quello che è il rendimento delle nostre obbligazioni adesso, il risparmio è più o meno di 500 milioni all'anno, ecco perché si è detto per gli anni di utilizzo si arriva quasi a 3 miliardi, a 6 miliardi, scusatemi, di risparmio. Abbiamo di nuovo Trovati. Sì, dicevo che Conte non si è rivolto alla sua maggioranza, si è rivolto all'intero paese, quindi lo spirito di condivisione, eccetera, per cercare di rimettere in sesto quel quadro che si è un po' lacerato. Ci sono stati ieri la manifestazione della destra in piazza, non era esattamente nel nome dell'unità, le prese di posizione di Confindustria di questi giorni non sono esattamente nel nome dell'unità, la maggioranza è percorsa da lacerazioni interne molto evidenti, sul MES prima di tutto. Italia Viva presenta nelle prossime ore un piano su come utilizzare il MES, quindi mettiamo 5 miliardi di là, 8 miliardi su altro, eccetera, eccetera. I 5 Stelle a tutt'oggi ufficialmente non ne vogliono sentire parlare, però insomma follow the money, il tema dei soldi rimane quello fondamentale, e rimane quello fondamentale molto prima dell'affacciarsi del Recovery Fund. Lo stesso Conte, nelle riunioni interne con i comuni, con le regioni nei giorni scorsi, ha sostanzialmente detto a mezza bocca che ci sarà bisogno di un nuovo scostamento del deficit, cioè di un nuovo ritocco al rialzo degli obiettivi di deficit, esattamente come abbiamo fatto per i 55 miliardi del decreto rilancio. Tuttavia anche questa strada non è infinita, perché il deficit sta già aumentando di suo per la caduta del PIL, che rischia di essere molto più rilevante di quella già. Cioè il rapporto deficit-PIL sta già aumentando di suo perché è crollato il denominatore, cioè il PIL. Esatto, questo è crollato peggio di come pensavamo. Questo è il... Allora, hai fatto bene secondo me a far notare che era un discorso, diciamo, di carattere politico al di là della sua maggioranza, cioè di appello al paese, dire il piano non può essere un piano di pochi mesi, e implicitamente, se sono d'accordo con te, è un appello a dire insomma io sono pronto a guidare la fase 3, mettiamola così. E anche perché di tensione nella maggioranza abbiamo letto tutti, e appunto abbiamo visto anche la manifestazione del centrodestra di ieri. Poi sul fronte delle misure concrete, io spero però che i tempi siano veloci, non quelli di altri comitati che abbiamo visto, e qua il riferimento per esempio va alla scuola, dove che non ho visto citata, però insomma magari adesso qualcuno gliel'avrà chiesto in fase di conferenza stampa. Io per il resto sull'impianto generale, se si vuole puntare sulle infrastrutture anche importanti, non solo quelle dell'edilizia scolastica e sanitaria, che sono importantissime, ma anche quelle di maggiore importo, non posso che essere d'accordo, ci mancherebbe. Non è da qui che è venuta una resistenza alle opere infrastrutturali. E vedremo poi se vi sarà una lista e una procedura vera e propria, perché adesso bisogna passare dalle parole, vedremo l'incontro a Palazzo Chigi, poi ha un piano concreto fatto di dettagli e fatto non solo di intenzioni. Questo lo dico senza offesa per nessuno. Grazie anche a Gianni Trovati. Vedremo appunto quando arriverà la convocazione e quando arriverà anche la nota del Comitato Tecnico Economico, quello di Colao. Noi intanto ci risentiamo domani dalle 17 in poi.